Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Due sorelle sposano due fratelli. Nascono due bambine che sono cugine, sia per parte di madre sia di padre. Poi arriva la guerra e le cuginette, ormai circa trentenni, non si vedono più. Una ha tre figlie, l'ultima delle quali è mia madre. L'altra, 8 anni dopo, avrà un figlio, il papà di Mirko, mio marito. Ciao, sono Vanessa Quinto, ho 35 anni e chiamo da Roma. Sono una giornalista, attualmente lavoro come impiegata, ma conto su un futuro professionale più bello molto presto. Era l'estate scorsa quando ho letto la storia di Vanessa, che in onda oggi, un po' come è successo per più o meno tutte le storie del mese scorso, del mese di settembre, anche più o meno queste le abbiamo lette grosso modo durante l'estate, io e Tiziano. E quando ho letto questa storia, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Sapete che quella storia è legata a un posto che non esiste, in cui vive e si moltiplica una stirpe, quella dei Buendía, che si sposa e si accoppia tra di loro. Ecco, la storia di Vanessa appartiene un po' a quel mondo lì, al fatto che i parenti spesso non sono solo parenti, ma diventano doppi, anche se in realtà si dice sempre, no? Tua moglie è una sconosciuta, tua madre. Si dice questa roba che, cioè, quando è uno di famiglia, il sangue è quello della famiglia, ma ricordi che tua moglie è una sconosciuta, tuo marito è uno sconosciuto. Ecco, non è esattamente questa la storia di Vanessa e suo marito Mirko, e presto saprete il perché. 349-238-6666, il profilo Facebook è sempre quello, e voi siete qui, Radio 24. Si parla... Ecco, avremmo potuto stringere su quelli che si sono sposati la cugina oggi, ma abbiamo preferito parlare di parenti in maniera più ampia e più varia, quindi di quei parenti che in un modo o nell'altro sono famosi in famiglia, perché lo sono realmente o perché in famiglia lo diventano. È un po' il caso di Fabio, che scrive: all'ultima riunione familiare mio zio Enzo mi ha raccontato di aver cantato davanti al Papa nel coro della parrocchia di Nonantola. Ecco, questi sono quelli che quando si fanno i pranzi di Natale si vendono di aver cantato davanti al Papa o davanti a non so chi. Pietro, mia mamma continua a sostenere che Michel Platini è un nostro lontano parente. Platini è delle mie parti, tra l'altro, eh? È di, del Nova, cioè, non, insomma, il nonno era di Agrate Conturbia, infatti scrive Pietro. Una volta è venuto in visita al nostro paese, Agrate Conturbia, provincia di Novara, e mia mamma si è scagliato contro, è scagliato davanti dicendo che erano cugini. Lui ha sorriso e ha detto: bene, il sempre stiloso Michel Platini. 349-238-6666, si parla dei parenti famosi o che si presumono tali della vostra famiglia. È tutto perché Vanessa, diciamolo com'è, ha sposato suo cugino. Quando gli ho detto: lo sai che assomiglia a mia madre? Forse avrei dovuto capirlo. Così come quando mi ha detto il suo cognome, lo stesso di mia nonna. Però in quel momento non ho dato peso a queste cose. Chissà quanta gente avrà gli occhi azzurri e i capelli scuri, no? E sai quanta gente si chiamerà Pennisi in Sud Italia? È un po' come dire Brambilla in Lombardia. E invece non erano coincidenze. Il ragazzo di cui mi ero innamorata e con cui avevo una storia da un paio di mesi era proprio un mio ignoto e lontano cugino. Dunque tutto è cominciato quando il mio amico Marco, una quindicina d'anni fa, ha iniziato a parlarmi del suo amico Mirko Pennisi e delle loro serate insieme. Io vedevo tutti i giorni Marco in piscina, ma anche nei pomeriggi di studio e poi a cena, nei pub, durante i mitici tornei di Pictionary, dove siamo campioni tuttora, imbattuti. E Marco mi parlava sempre del suo amico Mirko. O meglio, a me parlava di Mirko e a Mirko parlava di me. Non lo faceva per sponsorizzare una nostra eventuale storia, ma perché eravamo, separatamente, i suoi migliori amici. Così, quando nel 2000 sia io sia Mirko Pennisi ci siamo ritrovati single, è stato naturale uscire tutti insieme. Così come organizzare poi la festa per il carnevale del 2001. Era febbraio del 2001, stavamo preparando insieme ad alcuni amici una festa di carnevale e io ero l'addetta ai costumi. Io ero mascherata da Cocotte e Mirko mi aveva chiesto la cortesia di aiutarlo a mascherarsi da il corvo è il film di Brandon Lee ovviamente, non l'animale. Fino a quel momento lui per me era soltanto un amico di un mio caro amico, un ragazzo carino, interessante, ma non l'avevo mai guardato con occhi particolari. Sarà stata la vicinanza data dal trucco, sarà stata l'attenzione, la festa, ma durante la preparazione alla festa ho iniziato a considerarlo una persona un po' speciale. Era proprio quel 24 febbraio 2001, il sabato grasso, in cui io, truccandolo da corvo, quello di Brandon Lee ovviamente, notai la somiglianza con mia mamma e gli dissi quella frase che non è esattamente strategica per sedurre un uomo. Fatto sta che fu alla fine di quella festa che iniziò tutto. Il primo bacio e la passeggiata verso casa all'alba. La pulizia del luogo della festa, il giorno dopo. E la mia seconda frase fuori luogo, quando gli dissi: «Ti immagini se un giorno ci ritroveremo a pulirne una tutta nostra di casa?» Chiunque sarebbe scappato. Io stessa lo avrei fatto dopo averla detta. Ma non lui, non Mirko, che mi ha sorriso e mi ha detto: «Sarà bellissimo. Vorrà dire che avremo già un sacco di ricordi accumulati insieme». Ecco, così è iniziata la fase delle chiacchiere interminabili e dei racconti. Quelle in cui ti dici anche gli aneddoti più remoti della tua famiglia. Tipo, ad esempio: «Lo sai che io ho origini libiche?» E lui: «Anche io». «Sì, ma io nel senso che mia nonna è nata proprio a Tripoli». E lui: «Anche la mia». E io, che non so se sono lenta a capire o non lo volessi immaginare, dissi: «Sì, vabbè, è piuttosto normale, no?» Cosa fosse normale non lo so. Avere una nonna di Tripoli, forse? Perché avrebbe dovuto essere normale? Insomma, iniziamo una lunga conversazione su nonni, nonne, sui loro cugini di Tunisi, su mio nonno, di Sfax, in Tunisia, poi fatto prigioniero in America, per arrivare alla conclusione che io e lui eravamo parenti. In pratica è andata così. Due sorelle sposano due fratelli. Nascono due bambine che sono cugine, sia per parte di madre, sia di padre. Poi arriva la guerra e le cuginette, ormai circa trentenni e cresciute come sorelle, non si vedono più. Una, Concetta, è scappata a Roma con le sue due prime figlie, Luisa e Luciana. 10 anni dopo ne avrà una terza, Silvana, cioè mia mamma. L'altra cugina, invece, Yolanda, va in Francia e 8 anni dopo avrà un figlio, il papà di Mirko, lui, cresciuto solo con la madre, di cui ha preso il cognome. Il primo contatto tra le nostre nonne è stato telefonico e so che c'è stata tantissima commozione, si sono raccontate per telefono quasi tutta la vita che non hanno avuto modo poi di condividere. Mentre nell'incontro quello avvenuto di persona, un grande abbraccio, lacrime agli occhi, la distanza comunque non aveva cancellato quell'affetto che ti fa poi condividere le piccole cose di tutti i giorni. Io ho reagito con entusiasmo alla notizia. Ho pensato ad un disegno del destino, alla storia da romanzo. Mirko ha pensato che la parentela invece sarebbe stata un limite. Non ho ancora capito quale, ma lui parlava di genetica, di chiesa contraria, di suo padre che non l'avrebbe gradito. La storia mi ha dato ragione. Siamo sposati da 7 anni. Marco, il nostro amico, è stato nostro testimone e noi, 2 anni fa, siamo stati suoi. Il sacerdote che ha celebrato il rito non ha fatto nessuna obiezione, anzi, si è appassionato alla storia. In famiglia nessuno ha avuto da ridire, ma al contrario, mia madre e mia nonna hanno accolto Mirko sia come fidanzato, sia come nipote ritrovato. Riguardo alla genetica, non lo so, magari ti riscrivo quando avremo un bambino, ma mia madre, biologa, dice che non ci sono problemi. E a me piace pensare che assomiglierà a loro. You know I can't sleep at night, but just the same, yeah. I never weep at night, I call your name, I call your name. I never weep at night, I call your name, yeah. L'albero genealogico ha sempre esercitato un grande fascino su di me. Sapere da dove si arriva significa sapere di cosa siamo fatti. Gli stemmi sulle porte, i ritratti degli avi, gli oggetti appartenuti a qualche parente, magari emigrato o, meglio, incarcerato ingiustamente. Ecco, questi sono tutti dettagli che raccontano delle storie. Io, al liceo, avevo una compagna di classe. E, a parte che per un periodo aveva l'apparecchio, avete presente? L'apparecchio a baffo. Ed era secca come un chiodo. Insomma, a parte questo, era simpatica e anche molto carina. Suo padre aveva fatto l'avvocato, poi il giornalista, poi il comandante di una nave sul Mar Rosso che portava i pellegrini a Gerusalemme. E poi l'inventore di robe elettroniche, nipote di un sindaco di Roma e con una sequela di parenti eroi, santi, poeti e navigatori. E questo per parte di padre. Per parte di madre, invece, erano imprenditori, finanziatori della lotta partigiana e poi padri della Costituzione. Amici di Primo Levi, Cesare Pavese e Italo Calvino. La mia amica si portava tutta quella storia sulle spalle, ma senza sfoggio. Eppure tutte le volte che capitava di parlare della sua famiglia, le domande si sprecavano e rimanevano tutti incantati da quelle storie. Senza nemmeno accorgermene, ci sono entrato in competizione, come sempre. Anche io volevo una storia familiare da raccontare, bella almeno quanto la sua. E gli strumenti che avevo a disposizione non erano moltissimi. Di solito mi chiamavo, e continuo a chiamarmi, Matteo Caccia, molto semplicemente. Però, e su questo feci perno, abitavo in via dei Conti Caccia. Ora, a Romentino tutti sanno chi erano i Conti Caccia e tutti sanno che la mia famiglia non c'entra niente con i Conti Caccia. Ma a Novara e a scuola non lo sapeva nessuno. Io non ci ho pensato un minuto di più. Ho stropicciato un foglio di carta da pacco. Gli ho bruciacchiato i bordi sul fornello come se fosse una mappa dell'Isola del Tesoro. E con la stilografica ho disegnato il mio albero genealogico. Io mi sono messo come ultimo discendente di Gaudenzio Maria Caccia, conte di Romentino, nato a metà del Settecento da Antonio Maria e da Maria Teresa Trotti di Coazze, che conseguì il titolo sposando Ottavia dei Conti Leonardi. Via dei Conti Caccia era ovviamente il viale della famiglia, che portava verso casa mia. E avevo anche trasformato la villa bifamiliare tirata su a fine anni 60 in Villa Caccia. Un po' come Villa Borghese, Villa Panfili, Villa Adriana. E ho cambiato il mio nome in Caccia Matteo Gaudenzio Antonio Maria. Però una storia non esiste se non la condividi con gli altri. E per questo, il giorno dopo, decido di portare a scuola quell'albero genealogico. La sensazione di stare andando a sbattere contro un muro senza metterci nemmeno le mani davanti ce l'avevo ancora prima di entrare in classe, ma ormai non mi potevo tirare indietro. Così all'intervallo ho srotolato la mia pergamena, tutto compreso nel mio ruolo di maestro di cerimonie. Me l'ha passata ieri sera mio padre. Ha detto che appartiene ai maschi Caccia, ma da generazioni, che si conserva insieme a molti altri segreti in un posto che per proteggermi non mi può rivelare. Raccontai questa storia. A 16 anni si è molto impressionabili. Il finale da Spy Story ha lasciato la mia platea, cioè la classe, a bocca spalancata. Io resto in silenzio nel frattempo e mostro la pergamena agli altri. Ma fra gli altri, purtroppo, c'è Federico Ambiel. L'amico che tutti vorrebbero avere dalla propria parte, perché a starci contro non te ne fa passare una. Matteo Gaudenzio Antonio Maria, dice. Mi sa che il tuo avo aveva fame quando scriveva questa pergamena. Gira il foglio e legge. Sofficine, patate, insalata, Nutella. Vai prima che chiuda il negozio. Tutti i giorni mia mamma mi scriveva la lista della spesa da qualche parte e quel giorno era capitata proprio su quel foglio lì. A quel punto io non ho scampo, sudo, annaspo, sotto i colpi di Federico che mi martella le tempie leggendo e rileggendo ad alta voce i nomi dei miei falsi avi, luoghi e date di nascite e di morte. Crudele come solo il sergente Hartman di Full Metal Jacket. Solo che stavolta, palla di lardo, sono io. Solo la campanella di fine intervallo mi salva. Non è mai arrivata così desiderata come quel giorno lì. Il suo suono non è mai stato così dolce. C'è chi se la porta come una zavorra e chi se la inventa, la storia della famiglia, e qualcosa gli resta addosso. Io quel giorno me la sono inventata e quello che mi è rimasto addosso da quel giorno è Federico Ambiel. Lui continua ancora oggi a chiamarmi Matteo Gaudenzio Antonio Maria Caccia. breakfast and they both got eggs. Then there was the crash of the 4th of July. Meant a lot to her and so we didn't even mind. But when a pretty face could not have its way, the face disappeared in complete disarray. So take me for a walk in the city tonight. I've been an angel but I need to fight or it's over. 349-238-6666, si parla di parentele di qualsiasi tipo, si parla di parenti più o meno, più o meno famosi. Giorgio mi scrive: mio fratello ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta, ora fa il magazziniere, ma per tutti è il miglior mediano del paese. Esattamente, sono queste le parentele di cui vogliamo sapere, anche se tutto nasce dalla storia di Vanessa, che in realtà non conosce un suo lontano parente e alla fine ci si sposa. Pronto Vanessa? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Ma ho visto Tempi Migliori, va bene, grazie. Ecco, spieghiamolo, perché noi ci siamo sentiti prima fuori onda. Tempi Migliori perché hai una gamba rotta, sei stata investita, quindi il fatto che tu abbia una gamba rotta in realtà è quasi un sollievo, giusto? Esatto, esatto, sono stata investita, ma tutto sommato diciamo che me la sono cavata con un ginocchio rotto, dai. Bene, allora hai tempo, diciamo, non devi prenderti una pausa dal lavoro per fare quattro chiacchiere al telefono, visto che sei a casa. Mi dici che cos'è Pictionary, Vanessa? Pictionary è un gioco da tavola, meraviglioso secondo me, dove fondamentalmente bisogna disegnare un qualcosa e il tuo compagno di squadra attraverso il tuo disegno deve immaginare quel qualcosa, cosa sia. Ah, non è il gioco dei mimi, perché prima qua in redazione correva la voce fosse roba dei mimi, no, i disegni. No, si gioca a squadre, tendenzialmente a coppie però. Ok. Quindi siamo in coppia insieme, io disegno e tu indovini. E la coppia, adesso entriamo nel merito, eravate tu e Marco, che non esatto. È Mirko, giusto? Non è esatto. Mirko, tuo marito. No. Senti, però mi fai un veloce resoconto esattamente di chi è Mirko per te e tu per Mirko? A livello di parentela? Brava. Ok. Partiamo dall'alto. Sì. Due sorelle. Che vivono in Libia, giusto? Siamo in Libia. Siamo in Libia. Anni? Anni secolo scorso. Okay. Diciamo che mia nonna era dell'8, dunque diciamo che siamo all'inizio del 900. Ok. E due sorelle sposano due fratelli. Perfetto. Da questi due matrimoni sì. Nascono due bambine. Ok. Quindi sono due cuginette. Da parte di madre e di padre, giustamente. Esatto, okay. Doppie. Ok. Queste due cuginette erano rispettivamente mia nonna e la nonna di Mirko. Ah, ok, così è molto più semplice. Cioè, due cugine che vivono però, tu dici, quasi come sorelle perché esatto. Sono sempre insieme. A un certo punto si separano, giusto? Arriva la guerra, poi la Libia viene, insomma, sai quello che è successo. Gli italiani vengono, varie vicissitudini storiche. Ok. All'epoca non c'erano cellulari, internet, nient'altro. Si perdono i rapporti. Queste due cuginette, che in realtà erano quasi due sorelline, perché da parte di mamma e di papà, ovviamente crescono e ciascuna con la propria vita. Una vive in Italia e avrà un marito e tre figlie, di cui una poi sarà mia mamma. Okay. L'altra cresce in Francia, okay. A Nizza, e avrà un bambino che sarà poi successivamente il papà di Mirko. Benissimo, senti, a questo punto veniamo a voi due. Voi vi incontrate e, come ci hai raccontato benissimo, a un certo punto tu assomigli a mia nonna, è un'espressione... Davvero complimenti Vanessa, perché ci sono diciamo due cose che tu dici a lui e lo sottolinei, per cui diciamo non potevate non sposarvi, no? Di fronte a una roba del genere, se uno non scappa di fronte a A, tu mi ricordi mia nonna, e B, quando avremo una casa insieme da pulire, se quell'uomo rimane, diciamo che l'hai testato, pronti via, gli hai fatto un test e quello è rimasto. Sì, dai, le cose è meglio saperle subito, no? Dici quelle cose così a bruciapelo, che se rimane sarà tuo per sempre. Quando lo dite alla famiglia che appunto hai incontrato e sei innamorata di un cugino e lui di una cugina, le famiglie mi pare lo prendono bene? Meravigliosamente in realtà, okay. Perché poi io sono un ottimista e probabilmente se lo sono è perché alle spalle ho persone così, quindi tutto sommato si è iniziato a dire: dai, che bello, ah, questo era il destino, wow, possiamo rincontrare Cugini lontani. Mi piace immaginare la nonna che dice wow, invece da parte sua un po' meno. Guarda che mia nonna era molto moderna. Lo immagino. E invece da parte sua no, da parte sua c'era un qualcosa, adesso io non so e non sono mai entrata veramente nel perché sono temi molto... riservati, certo, e, insomma, certo. Non mi sembra il caso di approfondire, ma credo che il papà non fosse particolarmente felice di questa famiglia, non credo che fosse particolarmente legato. Ok, ok, quindi la questione... Perché è cresciuto da solo, perché sai, a Nizza era l'unico ramo della famiglia. Ho capito, era una questione più personale che non, quindi, sì, di parentela. Sì, era più personale, e poi soprattutto da parte sua c'era un po' la preoccupazione della serie. Se la storia va bene, sarà tutto meraviglioso. Se no, dovesse andare male... ci potrebbero essere altre implicazioni. Senti Vanessa, io ti ringrazio per la storia, ti faccio in bocca al lupo per la tua gamba e ci lasciamo col fatto che tua mamma, biologa, ci assicura che non ci saranno problemi. Ci lasciamo col fatto che lei ce lo assicura e che se dovessero arrivare dei bimbi sarete tra i primi a saperlo. Grazie mille Vanessa, in bocca al lupo e buona giornata. Crepi il lupo, un bacio. La foto che ci ha mandato Vanessa la trovate come al solito, come tutti i giorni, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Vi ricordo che ci trovate anche i brani che mandiamo in onda tutti i giorni. Nella foto di oggi Vanessa è, credo, ad una conferenza o stampa o a un incontro con il pubblico, perché è seduta dietro a un tavolo dove c'è un microfono, sapete, di quelli piantati nel tavolo, quindi è tipo una sala apposta per parlare in pubblico, e davanti a lei ha il cartellino con scritto il nome e il cognome. Alle sue spalle c'è una specie di cartellone di quelle cose fatte forse dai comuni, che sono fatte un po', ma sapete quelle robe fatte dai comuni con le scritte un po' fatte male, giovani, c'è la parola giovani, sì, quindi temo che c'entri un comune. Lei comunque è, direi, in forma smagliante, è una bella ragazza con i capelli ricci, biondi, sorride anche se ha nello sguardo qualcosa tipo: ma cosa sta dicendo questo? Cugino. Figlio di uno zio o di una zia, cugino di secondo grado, parentela tra figli di cugini. Affiliato a una società segreta, per esempio la carboneria. Mafioso della stessa cosca o famiglia. Epiteto attribuito a membri di comunità o etnie di lontane origini comuni. Etimo, dal francese antico cousin, data prima del 1313. Epitote... Questa la prende Matteo Caccia e la manda in onda. Mi sa che qualcuno ha soffiato ad Alessandra che mandiamo in onda i suoi fuori onda. E beh, tant'è Alessandra, sì, lo abbiamo esattamente fatto. 349-238-6666. I cugini che si incontrano, che non si riconoscono, si innamorano. E poi i parenti in generale, come Paolo che scrive: il nonno di mio nonno era uno dei mille. È possibile, il nonno di mio nonno? Beh, sì. O comunque la vende come tale. Sara: sono la nipote di un regista cinematografico che ha fatto film autoprodotti, nessuno lo conosce, ma a casa nostra lui è un artista. Mi mette un po' di malinconia questo messaggio, Sara. E poi Chiara invece scrive, e qui in quanto malinconia: Sergio, mio zio, è arrivato vicinissimo ad essere preso al Grande Fratello di qualche edizione fa, e per qualche giorno è stato il più famoso del paese. Questa è esattamente la storia, non so se l'avete visto, se non l'avete fatto andate a vederlo, dell'ultimo film di Matteo Garrone che è uscito proprio lo scorso fine settimana, che si chiama Reality, che è un film molto bello e parla proprio di quella cosa lì, parla di uno che è convinto di arrivare, di entrare nel Grande Fratello e praticamente sbrocca, cioè impazzisce e si rovina la vita. È un film bello perché è fatto bene, racconta una bella storia, e soprattutto perché l'attore protagonista, che si chiama Agnello Arena, è un fenomeno assoluto. Ed è un attore atipico lui per due motivi: perché è bravissimo, cioè non che gli attori italiani non lo siano, però lui è molto molto bravo, e perché lui è in realtà un ergastolano che lavora in una compagnia che si chiama la Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, e quindi lui è in carcere e poi tramite dei permessi lavora e fa l'attore. 349 Reality, andate a vederlo. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook è sempre quello Voi Siete Qui Radio 24. Giulio: il prozio di mia mamma è stato un esploratore che ha scoperto una zona inesplorata dell'Antartico. Lo ha raggiunto prima via mare e poi sulle slitte. Ha rischiato di morire congelato, ma dopo 8 mesi è tornato con una mappa dell'Antartico disegnata da lui. Si chiamava Egidio Pattoni. Non so chi sia, però rispetto, come si suol dire, per Egidio Pattoni. Veniamo da dove siamo partiti. Siamo partiti dal fatto che la storia di Vanessa mi ha fatto pensare a un libro famosissimo che parla di una stirpe che in pratica si gira su se stessa, e di questa diceria che corre in tutto il libro, che è 100 anni di solitudine, di Gabriel García Márquez, secondo cui si aspetta questo figlio nato tra cugini che ha la coda di porco. Questo in realtà cosa che non succede mai, ma è come tutta questa storia un po' magica e un po' no di Gabriel García Márquez, fa parte di quella di quell'aura di magia lì. In questa parte che voglio leggervi, che è la parte finale, che credo di avervi già letto, però non in particolar modo questa, il protagonista, cioè l'ultimo di questa stirpe, che è Aureliano Buendía, legge e scopre tutto su di sé e sulla sua famiglia. Era la storia della famiglia, scritta da Melchiades perfino nei suoi particolari più triviali, con 100 anni di anticipo. Aureliano lesse ad alta voce, senza salti, le encicliche cantate che lo stesso Melchiades aveva fatto ascoltare ad Arcadio e che erano in realtà le predizioni della sua esecuzione. E trovò annunziata la nascita della donna più bella del mondo, che stava salendo al cielo in corpo e anima, e conobbe l'origine di 2 gemelli postumi. A questo punto, impaziente di conoscere la propria origine, Aureliano passò oltre. Allora cominciò il vento tiepido, incipiente, pieno di voci del passato, di mormorii di gerani antichi, di sospiri di delusioni anteriori alle nostalgie più tenaci. Non se ne accorse perché in quel momento stava scoprendo i primi indizi del suo essere, in un nonno concupiscente che si lasciava trascinare dalla frivolità attraverso un altipiano allucinato, in cerca di una donna bella che non lo avrebbe fatto felice. Aureliano saltò 11 pagine per non perdere tempo con fatti fin troppo noti e cominciò a decifrare l'istante che stava vivendo. E lo decifrava mano a mano che lo viveva, profetizzando se stesso nell'atto di decifrare l'ultima pagina delle pergamene, come se si stesse vedendo in uno specchio parlante. Allora saltò oltre, per precorrere le predizioni e appurare la data e le circostanze della sua morte. Tuttavia, prima di arrivare al verso finale, aveva già compreso che non sarebbe mai più uscito da quella stanza, perché era previsto che la città degli specchi sarebbe stata spianata dal vento e bandita dalla memoria degli uomini nell'istante in cui Aureliano Babilonia avesse terminato di decifrare le pergamene. E che tutto quello che vi era scritto era irripetibile, da sempre e per sempre, perché le stirpi condannate a 100 anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla Terra. Ringrazio Vanessa per averci dato la possibilità di leggere le ultime righe di 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez. L'ultimo messaggio che è arrivato oggi dice: Silvia, mia nonna dice di essere stata corteggiata da re Vittorio Emanuele durante una cerimonia a Torino in cui lei era cameriera. Non so se è vero, ma mi piace immaginare che sia così. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Tiziano Bonini, Fabio Cantadori, Mauro Pescio e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Vanessa e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Stefano di Napoli. La storia di domani è la mia e parla di pugni. Questa è la mia storia e io sono qui.